info. Salute e società. Punto radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Eccoci ad un nuovo appuntamento con Soinfo, la rubrica radiofonica settimanale che vi accompagna nell'approfondimento dei temi della salute della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Proseguiamo con il tema inaugurato ieri, la menopausa, chiedendo alla dottoressa Micaela Bertezzolo, dirigente medico del reparto di ginecologia dell'ospedale di Conegliano, quale sia l'impatto psicologico nella donna e come poter affrontare al meglio questo periodo della vita. La menopausa provoca una serie di mutamenti che riguardano almeno quattro aspetti importanti, che sono gli aspetti trofici, gli aspetti metabolici, gli aspetti sessuali e gli aspetti psicologici. Possono manifestarsi, e sottolineo possono, perché non tutte le donne avranno i sintomi che vedremo, possono quindi manifestarsi una serie di sintomi che variano a seconda della persona e possono essere più o meno marcati tra donna e donna. È importante ribadire che non tutti i sintomi sono poi ricollegabili alla menopausa in sé, poiché vanno ad influire in questa fase della vita anche altri fattori, quali possono essere il contesto familiare, la rete sociale, il contesto lavorativo che sono intorno alla donna. Qualche definizione: parliamo di perimenopausa, intendendo il periodo che va dalla fase precedente alla menopausa che si esaurisce dopo un anno dalla menopausa, quindi dal momento di cessazione delle mestruazioni. E definiamo invece menopausa precoce quando la cessazione dei cicli avviene prima dei 40 anni. Vediamo ora quali sono le manifestazioni immediate della carenza ormonale, le prime che la donna sperimenta. Oltre all'ovvia alterazione del quadro delle mestruazioni, che quindi si manifesta con irregolarità dei cicli, sia per frequenza che per durata che per quantità, in questa iniziale fase vengono espressi i primi disturbi di tipo psicologico. Parliamo di ansia, parliamo di irritabilità, di sbalzi dell'umore fino alla depressione. Ci troviamo di fronte a una donna che cambia, che può sentirsi inadeguata, poco compresa da chi le sta attorno. I sintomi più comuni poi quali sono? Le vampate di calore vengono definite come episodi di improvvisi sbalzi di temperatura, la donna comincia a sudare improvvisamente, ha un fastidioso senso di calore che solitamente parte dal torace, sale poi al collo e al volto, è seguita poi da un calo della temperatura e da una sensazione di freddo. Spesso questi sintomi si manifestano durante la notte e vanno a disturbare e interrompere il sonno. Ci sono poi tutta una serie di modificazioni a livello cutaneo e dell'apparato urinario che si manifestano come distrofia e atrofia, cioè cute e mucose che risultano disidratate e meno elastica. La cosiddetta sindrome urologica è quindi caratterizzata da cistiti e uretriti ricorrenti, con sintomi che riguardano non solo l'apparato genitale, per fare un esempio il dolore al momento del rapporto sessuale, ma anche l'apparato urinario. Molti studi hanno dimostrato che con i cambiamenti ormonali della menopausa il desiderio sessuale delle donne diminuisce e risulta pertanto fondamentale trattare le donne che lamentano questi sintomi proprio per non gravare sul calo del desiderio e permettere alla donna una soddisfacente vita di coppia. Vi sono poi una serie di manifestazioni più tardive, ricordiamo le due principali: l'osteoporosi, cioè una riduzione della densità ossea che può facilmente comportare fratture anche per piccoli traumi, e le manifestazioni cardiologiche. Con la menopausa è stato registrato un aumento delle malattie cardiologiche, per cui il rapporto donna-uomo, che prima era favorevole alla donna, un rapporto di 1 a 5, dopo la menopausa diventa uguale al maschio, quindi questa differenza diminuisce notevolmente. E abbiamo così inquadrato l'argomento della menopausa. Parliamo ora delle possibilità di trattamento. Abbiamo la terapia che si divide in due grandi categorie, le terapie a base ormonale e quelle non ormonali. Vanno trattate le donne che siano sintomatiche, quindi che manifestino dei sintomi della menopausa, che abbiano un'età inferiore ai 60 anni e che siano in menopausa da non più di 10 anni. Quali sono le terapie ormonali? Allora, le terapie ormonali sono importanti perché hanno delle controindicazioni e queste le elenchiamo: sono i sanguinamenti anomali, il carcinoma pregresso della mammella, il carcinoma dell'endometrio, la patologia coronarica, la tromboembolia, le malattie epatiche, l'ipersensibilità o l'allergia a uno dei componenti e anche il rifiuto della donna informata. Poi abbiamo le terapie non ormonali, che possono essere prescritte ad un numero maggiore di donne, ed è ben documentata l'azione favorevole di questi trattamenti sui sintomi immediati, quali per esempio le vampate. È importante che il counseling che il medico rivolge alla donna che affronta questa nuova fase della sua vita. È quindi fondamentale insistere sugli stili di vita, consigliare la dieta, l'attività fisica regolare, smettere di fumare ed eventualmente il calo ponderale se vi è obesità o sovrappeso. Da medico e soprattutto da medico donna, mi sento quindi di consigliare alle donne di affrontare con il loro medico di fiducia o il loro ginecologo questo argomento, al fine di capire che tante di queste modificazioni che accadono sono dovute alla carenza ormonale, ma si possono trattare con buoni risultati. Perché noi non vogliamo solo aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni. Così il nostro intervento è mirato a migliorare la qualità della vita. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2, marca trevigiana.